Tutta la comunità così radunata era di 42.360 persone. Inoltre vi erano i loro schiavi e le loro schiave, questi erano 7.337. Poi vi erano i cantori e le cantanti, 200. I loro cavalli, 736. I loro muli, 245. I loro cammelli, 435. I loro asini, 6.720. Alcuni capi famiglia, al loro arrivo al Tempio che è in Gerusalemme, fecero offerte volontarie per il Tempio, perché fosse ripristinato nel suo stato. Secondo le loro forze, diedero al tesoro della fabbrica oro, dramme 61.000, argento, mine 5.000, tuniche da sacerdoti 100. Poi i sacerdoti, i leviti, alcuni del popolo, i cantori, i portieri e gli oblati si stabilirono nelle rispettive città e tutti gli israeliti nelle loro città. Come giunse il settimo mese, mentre i figli di Israele erano nelle loro città, il popolo si adunò come un solo uomo in Gerusalemme. Si levò allora Giosuè, figlio di Josadac, assieme ai suoi fratelli sacerdoti e a Zorobabele, figlio di Sealtiel, con i fratelli suoi, e costruirono l'altare del Dio d'Israele per offrirvi olocausti, come sta scritto nella legge di Mosè, uomo di Dio. Ristabilirono l'altare sul suo fondamento, benché su di loro gravasse il timore dei popoli del paese. Sopra di esso offrirono olocausti al Signore, olocausti del mattino e della sera. Celebrarono la festa delle capanne, come sta scritto, e offrirono olocausti ogni giorno nella quantità che è di regola giorno per giorno. Da allora si continuò ad offrire l'olocausto perpetuo e l'olocausto per i noviluni e per tutti i tempi sacri del Signore e per chiunque facesse qualche offerta volontaria al Signore. Cominciarono a offrire olocausti al Signore dal primo giorno del settimo mese, benché le fondamenta del Tempio del Signore non fossero ancora state poste. Diedero allora denaro ai tagliapietre e ai legnaioli, viveri e bevande e olio a quelli di Sidone e di Tiro, perché facessero giungere legni di cedro dal Libano a Giaffa via mare, secondo l'autorizzazione di Ciro, re di Persia, a loro favore. Nel secondo anno dal loro arrivo alla casa di Dio in Gerusalemme, nel secondo mese, Zorobabele, figlio di Sealtiel, e Giosuè, figlio di Josadac, e gli altri loro fratelli, sacerdoti e leviti e quanti erano venuti dalla prigionia a Gerusalemme, si misero all'opera. Posero a dirigere i lavori della casa del Signore i leviti dai 20 anni in su. Giosuè, i suoi figli e fratelli, Cadmiel, Binnui e Odavia, dirigevano come un solo uomo gli esecutori del lavoro nella casa di Dio. Così pure i figli di Kenadad, i loro figlioli e i loro fratelli leviti. Mentre i costruttori gettavano le fondamenta del Tempio del Signore, i sacerdoti assistevano nei loro paramenti con trombe e i leviti figli di Asaf con cembali, inneggiando al Signore secondo gli ordini di Davide, re di Israele. Lodavano e ringraziavano il Signore, poiché egli è buono, la sua misericordia verso Israele è per sempre. Tutto il popolo mandava alte grida di gioia, lodando il Signore, perché venivano poste le fondamenta della casa del Signore. Molti, però, dei sacerdoti e leviti e capi famiglia anziani, che avevano visto l'antico tempio, singhiozzavano forte, mentre davanti ai loro occhi venivano gettate le fondamenta di questo. Ma i più alzavano grida con voci di gioia ed allegrezza,